Bene, 87, 9, 17, 30 minuti, come vi dicevo, insomma, siamo al telefono con Geraldine, voce ormai che conoscete, la nostra compagna di Milano, ma insomma cilena, ecco, non so se ti piace che dico di Milano, però ecco, ti è toccata Milano della rete internazionale in difesa del popolo Mapuche. Geri, ah ecco, compagni, scusa, compagni, ciao. Allora, come sentito, noi prima abbiamo letto questo ultimo, solo forse uno degli ultimi comunicati che riguardano quello che succede in carcere, nel carcere di Temuco, in questo caso, questo accanimento razzista verso Luis Stranamil e Facundo Uala. Vabbè, insomma, veramente la rabbia, inutile dire quanto sale, ma mi sembra chiaro che questo è un modo di rendere palese l'atteggiamento che, di cui parliamo spesso, no? Allora io quello che mi viene da chiederti è, qui si parlava di dare delle sanzioni, io so che tu comunichi spesso con Facundo, quindi ti chiedo se effettivamente questo comunicato era di martedì, se da martedì a oggi sappiamo che tipo di punizioni sono state, se effettivamente ci sono state. Guarda, questa è una situazione che era successa già una o due settimane fa, prima, con uno dei prigionieri politici mapuche, che è Luis Stranamil. È successa questa condotta violenta di questo gendarme contro Damien Stranamil una o due settimane fa. Lo abbiamo saputo anche perché c'è stato un comunicato della comunità di Luis Stranamil e anche perché uno dei nostri compagni della rete è entrato a fare visita a Facundo questo venerdì, no? E quindi tra le tante cose avevano parlato di quello che era successo già all'interno del carcere con questo gendarme. E poi ieri ho visto la notizia attraverso questo comunicato che la situazione si è ripetuta, ma non solamente con la mia e Luis Stranamil, sino anche con il lonco Facundo Uala, in cui la situazione diciamo, ha coinvolto tutti i prigionieri politici mapuche che si trovavano lì, giustamente, no? Perché sembra che questo gendarme in particolare è quello che manifesta più delle altre diciamo, questo odio razzista contro il popolo mapuche, per cui fa ancora di più autorità sulla sua divisa, per rompere le scatole, per insultare, per offendere e anche per commettere, diciamo, per perpetrare violenza fisica, per dire così. E quello che io ho saputo, perché io ieri mi sono comunicata con lui, che ha due giorni alla settimana in cui lui può comunicare, e quando io ho visto questo comunicato ovviamente l'ho scritto per sapere come stava, e lui mi ha detto che stava bene, a parte che era molto molto incazzato per la situazione, ma lui mi commentava che alla mia Luis Stranamil gli hanno dato una sanzione di 7 giorni senza visite, però che per lui ancora non sapeva niente quale sarebbe stata la sanzione da parte della gendarmeria, perché a differenza della mia e Luis Stranamil, al lonco Facundo Jones Uala, diciamo che c'è stato scritto un foglio sulla mancanza di disciplina che è andata al tribunale. Quindi c'è una grande differenza. Possibilmente una denuncia. Sì, una denuncia, tipo denuncia. Perché non è che è rimasto, diciamo, all'interno, non è rimasta all'interno della gendarmeria come misura da prendere. Se no, la gendarmeria è arrivata al punto di inviare questa sanzione, questa denuncia al tribunale, e adesso il tribunale decidirà che tipo di punizione arriverà all'onco Facundo Jones Uala. In cui lui ovviamente mi dice a me, se mi danno una punizione senza visita per 7-14 giorni, a me non mi cambia niente. Questo lo diciamo perché vi ricordiamo che troppo lontano sta da casa sua Facundo. Per chi non lo sapesse, appunto, Facundo è stato estradato dall'Argentina o comunque dalla Patagonia occupata dallo Stato argentino, è stato estradato in una maniera abbastanza ridicola, ma sicuramente abbastanza infame, appunto, in Cile. Quindi, insomma, le visite per Facundo non è che siano proprio semplici, quelle dei suoi familiari, quelle delle persone della sua comunità. Questo probabilmente è un motivo per cui dice questo. Dall'altra parte, sicuramente Facundo è sempre stato uno che non si piega. Non si piega, non è che me piego e non me spezzo, no, neanche si piega, no? Io me lo ricordo in uno sciopero della fame che non si sapeva come faceva a stare in piedi con un'energia pazzesca. Quindi Facundo non si piega proprio, lui te lo dice, a me non me levano le visite per un mese, non me ne può fregare di meno, io so dove devo andare, so come ci devo andare, so chi c'è là fuori che crede in me, il resto non mi interessa, ecco. Insomma, mi sembra. Sì, no, è così come l'hai detto te, noi lo conosciamo anche così, per quello che tante volte il suo atteggiamento così frontale, così aperto, così deciso e molto coerente disturba tanto allo Stato cileno, allo Stato argentino, no? Perché lui non ha mezze parole e comunque sappiamo che anche se si trova dietro le sbarre della pressione carceraria, lui continua a incitare il suo popolo a rivelarsi contro questo sistema capitalista e contro lo Stato. E adesso è da aspettare, mi ha detto, che cosa arriverà dal tribunale come sanzione, perché come ti diceva prima, lui non le cambia niente se la punizione è che salta le visite per una o due settimane, se no che il fatto che arrivando dal tribunale poi questo te va a complicare ancora di più la situazione giudiziaria. Se in un futuro, non lo so, vicino o lontano, se chiedesse un beneficio e una libertà condizionale, che come già è successo, questo va, come si dice, a pesare sulla sua cartella di antecedente, no? Di condotta, sì, infatti, all'interno del carcere, cosa che anche non cambia molto, perché lui è chiarissimo che già tre volte le hanno negato la libertà condizionale, quindi sicuramente dice cosa mi aspetta, sì, non lo so, e quello che sarà veramente non mi cambia niente. No, infatti sul nostro blog uno degli ultimi post che abbiamo fatto riguarda proprio un suo comunicato in cui lui proprio per le difficoltà forse che gli dà l'essere prigioniero, è difficile poi spiegare se stessi, no? E quindi quando per esempio abbiamo parlato di alcune figure istituzionali che si sono presentate al suo processo, lui poi si è sentito in dovere di chiarire, perché fuori intanto succede il caos, di chiarire che lui non è che quelle persone stavano lì perché lui era sceso a mediazioni, ma anche anzi che quelle persone erano lì proprio per fare pressione sul tribunale, che quindi e in questo comunicato lui con molta serenità sa benissimo che a lui non gli sconteranno mai niente, lui sa benissimo che la sua pena sarà allo quadro e medio, no? A quello che gli manca, giusto? È disarmante questa sua analisi, che lui fa credo con una serenità, o almeno con una con questa parvenza di serenità, e allora io quando la leggo poi mi vengono in mente le sue parole: noi sappiamo che il carcere è una parte del nostro percorso, no? Quindi certo, insomma, per ogni azione c'è una spiegazione politica, una spiegazione di militante, una spiegazione di pratica politica che motiva sempre. Non è che lui è sereno a dire queste cose perché sta fuori di testa, perché c'è un discorso assolutamente coerente con le proprie pratiche, con la propria ricostruzione del proprio mondo, no? Sì, no, le tue parole sono chiare, sono sacre, perché riflettono quello che è Loco Facundo y Onosguala, e che io ancora una volta ieri l'ho detto a lui e alla mia, l'ho detto: penso che se noi come rete sosteniamo con tanta credibilità la vostra la lotta e anche il percorso purtroppo che sta facendo nel carcere, è perché durante questi anni Facundo ci ha dimostrato tanta coerenza e tanta chiarezza su quello che è la prigione politica, no? È un insegnamento anche parlavamo un giorno anche per i giovani, no? Che la prigione politica è parte del cammino della lotta, e quindi questo deve essere sempre ricordato e sempre rivendicato. Hai fatto molto bene a ricordare il comunicato precedente, in cui giustamente lui chiarisce questa situazione, che lui non ha mai transato, non ha mai negoziato la sua libertà, no, né con le istituzioni, né con il governo cileno, né con il governo argentino. Dal momento in cui in una delle ultime udienze in cui si trattava la sua libertà condizionale, che è stata ancora negata, si era presentato l'ambasciatore argentino in Cile, no? e quindi lui mi commentava, per me è importante non dare spiegazione, sino che ancora riaffermare la mia posizione, che io con il nemico non parlo, non dialogo e nemmeno mi vendo, e questo se lo devo dire sopra tutto il mio popolo, perché anche se ci sono stati purtroppo commenti dello stesso popolo Mapuche, non delle sue comunità ma del suo territorio, in cui dicevano ma l'onco Facundo sta transando la sua libertà col governo argentino, cosa che non è vero, non è stato mai così. Quindi per quello che lui ci teneva a far uscire, a scrivere quel comunicato che tu hai letto, che si può trovare nella nostra pagina, in cui molto chiaramente lui ancora una volta rivendica la prigione politica come parte della lotta del popolo Mapuche, e in cui dice ancora una volta l'unico cammino per continuare questa lotta è la lotta rivoluzionaria e autonomista. Quando ci sono parole non ci sono negoziazioni, perché la libertà si deve costruire dalla dignità, no? Non delle briciole che ancora i governi dei diversi turni ci tirano, e anche con disprezzo forse, ecco. Sì, appunto, quindi diciamo che questa è la situazione adesso, dopo tre rifiuti alla libertà condizionale, dopo tre comunicati che ha scritto e che ha fatto uscire in queste tre settimane, e diciamo che lui è sempre molto sereno, molto lucido, molto coerente, molto fermo sulle sue ideologie e sul suo posizionamento politico in quanto alla lotta del popolo Mapuche, che sappiamo bene che non tutte le comunità attuano e portano la lotta avanti dello stesso modo, che anche una critica che lui fa proprio al suo popolo su tutto quello che sta succedendo, già sia nel Polmapu o nel Gulumapu. Insomma, e questo io adesso non vorrei poi, così, il tempo ahimè è tiranno, io direi che abbandoniamo Facundo e ci spostiamo ahimè in un altro carcere, questa volta invece parliamo di un giovanissimissimissimo prigioniero della rivolta, stiamo parlando di Mattia Giordano, a lui stiamo mandando i saluti, abbiamo aperto un canale per cui lui ogni tanto ci ascolta dal carcere, io spero che stia cuciando, perché sai che tu opero con los verdes che lo incontra in telefono, lo punidore, sta caga. Beh, entonces un abrazo a Mattia Giordano, si sta cuciando a casa la Rie, la Geri. Però io, appunto, noi abbiamo parlato un po' del suo caso e così, io so che oggi sarà una giornata un po' hard, raccontaci, anche perché tu sei proprio quella che chiacchiera con tutti, no? Meno male che ci sei te, insomma, anche con Mattia Giordano io mi ci scrivo, cerco un po' di distrarlo, io so che invece tu poi parli di lui proprio anche delle questioni giuridiche e oggi lui andrà a deporre, no? Sì, diciamo che io ho un compito che da una parte è molto bella, che è quella della comunicazione con i prigionieri politici o con le cause che noi sosteniamo come rete, e anche c'è l'altra parte che sempre ti dico io, che è la parte del coinvolgimento, che dopo dello politico ovviamente passa anche all'umano, no? E qui lì si costruiscono tanti legami emotivi, affettivi, che sono il risultato dopo delle nostre gioie, le nostre tristezze, le nostre come si dice, vittorie anche sconfitte. Posso parlare, diciamo, con lui frequentemente, spesso. Allora, il Matías Giordano è un giovane cileno che è stato detenuto durante la rivolta in Cile. È uno dei tanti prigionieri politici della rivolta che ancora rimangono dietro le sbarre della prigione carceraria di Sebastián Piñera. Noi come Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche abbiamo deciso di sostenere il suo caso, perché Mattías Giordano, a parte di essere molto giovane, ha 21 anni, ha una situazione anche personale in cui lui si trova proprio da solo a affrontare questo contesto giudiziario e carcerario, no? già è difficile e duro vivirlo all'interno del carcere per tutto quello che significa la società carceraria, no? Disumana e crudele. E in più per lui non avere nessuno all'esterno del carcere che lo sostenga o che sia un ponte di comunicazione o di informazione su quello che sta vivendo lo rende ancora più difficile, per quello che noi come rete abbiamo detto e abbiamo deciso di sostenerlo, perché a differenza di altri prigionieri politici è un ragazzo che non conta con una mamma, con un padre, con una famiglia che le sta dietro e che lo sostiene in questa durissima situazione che lui sta portando, che lui sta affrontando. Il Matias Giordano si trova in carcere già da un anno, dal 15 ottobre 2020, no? In la prigione di Santiago 1. 15 ottobre deve essere proprio una data nera. Vabbè, andiamo avanti. Sì, per fatti accaduti durante una manifestazione della rivolta nel quartiere dell'Ormida, Santiago. E lui ha un sacco di accuse, tra di loro associazione illicita, tentato omicidio a carabinieri, detenzione, uso di molotov, detenzione di arma, fabbricazione artigianale, uso abusivo di arma di fuoco, tra tante altre accuse. Sono riuscita anche a nome della rete a contattare l'avvocata, quindi adesso abbiamo un contatto direttamente con lei e è stata lei a fornirmi tutte queste informazioni. Succede che in quel giorno lì sono state detenute 11 persone, ad oggi 7 di loro sono liberi e 4 stanno scontando il carcere preventivo ancora dopo un anno, tra di loro Mattia Giordano, e lui è l'unico che ancora non è stato condannato, per quale l'investigazione è ancora aperta. La situazione, mi ha detto l'avvocata, diciamo nell'aspetto giuridico è molto molto molto complessa, perché lui rischia di 35-40 anni di prigione politica. E questo ragazzo, come diceva, ha passato dall'infanzia una vita difficile, è cresciuto in strada e purtroppo ha anche vissuto molti anni nel contesto perverso del Sename, no? Del Servizio Nazionale di Minore in Cile. Durante questo anno si sono richieste la revisione delle misure cautelari diverse volte e le è stata negata sempre. E quindi il 6 di ottobre si è svolta un'udienza di revisione durante la quale il pubblico ministero ha aggiunto un'altra accusa a tutte quelle che già aveva, questa volta per porte di munizioni, aggravando ancora di più la sua situazione giudiziaria. E come dicevi te, oggi alle 15 ore di Cile dovrà dichiarare davanti al pubblico ministero, ma di quello che mi ha detto l'avvocata lui non deve aprire bocca, e solamente diciamo che farà un atto di formalizzazione, perché non dichiarerà, perché ovviamente non conviene in questo momento. E per il 16 novembre è stata fissata un'altra udienza che potrebbe essere, mi ha detto l'avvocata, per chiudere l'investigazione o per allungare ancora di più i tempi dell'investigazione. Questo vuol dire che ha passato già un anno in prigione preventiva e questo caso è ancora aperto, l'investigazione è ancora aperta, lui non è stato ancora condannato, e per cui mi ha detto l'avvocata che parliamo di un inizio di preparazione al processo a gennaio 2022, quindi i tempi abbastanza lunghi. E diciamo che quella è la situazione giuridica che lui sta affrontando in questo momento, e noi come rete stiamo cercando di tutti i modi di sostenerlo, già sia nell'aspetto politico, giudiziario, umano, materiale e anche economico, perché stiamo anche provvedendo a quello dalla distanza, cercando di organizzare, come sappiamo, nel carcere i pacchetti, il pacco, no? Quello che qua si chiama il pacco, l'encomienda, il pacco che si può ingressare una volta alla settimana, di stare attento a tutto quello che potrebbe aver bisogno, perché lui di quello che ho parlato conta solamente con alcuni compagni e compagni che lo sostengono dall'esterno, dal carcere, però non sono tanti. Poi, come ho detto prima, non ha una famiglia, e poi un caso del quale non si conosce molto all'interno di tutti gli altri casi di prigionia politica che ancora in Cile vanno avanti con questo governo di Piñera. Sì, insomma, tra l'altro chissà, un giorno faremo anche una trasmissione su quanto si sta muovendo, perché poi noi abbiamo parlato di come si stava mettendo in piedi questa convenzione costituente, di cosa stava succedendo al suo interno, nel bene e nel male, di quali divisioni stava causando, ma ahimè intorno a questo si gioca anche la sorte dei detenuti e delle detenute della rivolta, perché qui c'è chi non si vuole accollare, c'è chi, insomma, ci sarebbe anche lì da spiegare. Un giorno forse dovremmo fare proprio così un intervento su questo, perché credo che siano cose che poi nell'emergenza cilena, o comunque nel processo cileno, nelle evoluzioni, quello che sta succedendo in Cile, poi certi discorsi contro carceri, istituzioni totali, amnestie, indulti ciclicamente poi passano. Quindi secondo me bisogna avere un po' chiaro poi quali sono i tranelli, e non sempre, insomma, pensando che non si lascia indietro veramente nessuno, ecco. Sì, purtroppo, come dici te, ci sono tante tematiche in questi giorni, si stanno muovendo in Cile, dalla costituente alla legge di indulto, e a quello che è successo anche nella Camera dei Deputati e Deputate questa settimana contro l'accusa costituzionale a Sebastián Piñera, no? E quindi sono tanti tanti fatti che stanno succedendo in Cile, e come dici te vanno anche collegato alla libertà che potrebbero avere o accedere alcuni compagni, perché su questa legge di indulto io personalmente, politicamente, avrei tanto tanto da dire, perché come tutte le cose, tutti i documenti, ci sono tante lettere piccole in cui questa libertà purtroppo non sarebbe un beneficio o un diritto per tutti, per tutte e i compagni e le compagne che ancora sono incarcerate in Cile. Quindi anche, come dice te, magari un giorno parlare di questo, e lo dico adesso che mi ricordo, perché ho parlato con l'avvocata di Matias Giordano, e io le ho fatto questa domanda: in caso che questa famosa legge indulto, che della quale io sinceramente non mi fido, perché mi ricorda tanti anni fa, 30 anni fa, che noi abbiamo vissuto in quel periodo della concertazione, mi dice lei sì, che Matias Giordano accede e potrebbe ottenere la libertà attraverso questa legge di indulto, no? Però, per dire, noi abbiamo anche sosteniamo anche Felipe Santana, che è un altro compagno, esatto, della rivolta, no? E nel carcere di Puerto Montt. Però Felipe Santana è già stato condannato a 7 anni, 4 mesi per un supposto incendio a una banchina del Duomo di Puerto Montt. Che l'altro giorno ho visto che una candidata presidenziale, Jasna Proboste, quando l'ha chiesto per l'uomo che aveva incendiato pure la chiesa, neanche la panchina, che questo uomo che aveva incendiato la chiesa con delle persone all'interno, avrebbe accesso all'indulto con questa legge, lei ha detto di no. Esatto. Ha detto di no, perché tutti i prigionieri e le prigioniere che hanno commesso delitti di incendio o di omicidio, per dire, e anche adesso la destra vuole includere anche il delitto di Molotov, tutti quelli compagni, tutte quelle compagne non avrebbero accesso a questa legge di indulto. Per cui c'è tanto da dire su questa legge di indulto che oggi si sta promuovendo in Cile. Tutto questo anche perché il 21 novembre, se non sbaglio, ci sono già le votazioni per le presidenziali, e quindi cominciano i giochetti politici in cui eludono le famiglie su una legge di indulto che potrebbe liberare i propri figli e figlie, e invece adesso cominciano tutte le contraddizioni di diversi partiti politici. Ecco, che non mi pare proprio. Va bene, sì, ne dovremo parlare comunque, Geri, ecco, questo appunto, dobbiamo un po' approfondire questo aspetto, capire appunto chi ci rientra, chi no, insomma, perché non ci convince, ecco, mi sembra in sintesi. Esattamente. Geri, io ti ringrazio veramente. E insomma, noi siamo qua, continueremo a parlarne, continueremo anche a invitarvi a sostenerci. Se volete sostenere la rete, lo potete fare senza mandarci i soldi, ma sul nostro blog c'è le bellissime foto di quello che noi abbiamo, del banchetto, che va dalle magliette ai libri, ai manifesti, agli orecchini, che vengono fatti, molti vengono fatti in carcere proprio dai detenuti, che poi con i soldi che noi gli rimandiamo indietro riescono a comprarsi le cose che il carcere non gli dà, in quanto loro mapuche, il carcere non li calcola proprio, e nonché, insomma, casomai per noi anche riuscire, per esempio, a fare il pacco, a sostenere gli avvocati, a riuscire a intervenire così coi miseri soldi finché possiamo, potete darci una mano anche voi, ecco. E soprattutto io aggiungo, perché in chiusura lo vogliamo fare, quando noi parliamo di Facundo ci dobbiamo ricordare che Facundo Gionesuala e Santiago Maldonado hanno in comune, intanto, che Santiago è morto ed è scomparso per manifestare contro l'arresto di Facundo Gionesuala. Facundo Gionesuala viene dalla comunità che è la spina nel fianco della famiglia Benetton in Argentina, famiglia Benetton che è direttamente coinvolta con i suoi uomini sul campo il giorno della sparizione di Santiago. Benetton è un nostro nemico, chi fa le cose con lui è un nostro nemico, anche se manda a cagare Salvini. È chiaro? Non ci basta che Gali mandi a cagare Salvini perché sia un nostro solidale. Non ci frega, a noi non ci freghi. I United Colors di Benetton per noi non sono United Colors. Gli unici colori che c'ha, oltre al suo verdino mar de panza, sono le sue mani rosse di sangue, di Santiago Maldonado, del popolo Mapuche e del carcere per Facundo Gionesuala. Quindi, Gali, vatti a Rivone. Sì, anche perché direi che mandare a fanculo Salvini è la base dalla quale dovremmo partire tutti. Sì, o comunque, insomma, diciamo, una cosa che, sì, e soprattutto, ecco, lì, no? Insomma, diciamo che l'opportunismo non ha veramente fine. Ecco. Certo, mai la mia per questa intervista, sei stata bravissima. No, grazie a voi, aggiungo Marta quello che hai detto, che tra pochi minuti pubblicheremo il testo in cui noi ribadiamo il nostro compromesso con il popolo Mapuche contro il nemico Benetton, in cui le ricordiamo a Gali che la coerenza non viene solamente delle parole, sino che cominci un po' a informarsi chi è Benetton, non solamente in Italia, anche in territorio Mapuche.